Io appartengo ai popoli erranti, ai pastori, ai senza stato. La mia pista cambia le notti senza luna e non smette di impedirmi di costruire con sassi e pietre. La mia tenda resiste al vento, alla pioggia e al tempo. Non la troveranno domani all'alba i vostri missili, né le truppe di frontiera mi vedranno mentre valico. Vostro padre è stato il primo agricoltore, il mio guidava un gregge. Vostro padre aveva messo radici nella terra che amava. Il mio la lasciava ogni stagione per innamorarsene ancora e ancora a ogni ritorno. Vostro padre aveva un confine preciso, un focolare, desideri e progetti. Il mio esisteva nel senso pieno e succoso che la parola sa assumere quando non ha bisogno di essere pronunciata, solo vissuta. Per questo vostro padre uccise il mio. C'è chi afferma fosse invidia, altri pensano si trattasse di Brahma, per altri ancora è stata la conseguenza stessa della vita che ha avuto il sommo bisogno di vedere di cosa fosse fatto ciò che le spettava alla fine. Solo che la terra non poteva restare senza un errante, così come il gregge stanziale finiva con l'ammalarsi. Avete ragione e torto insieme se mi pensate un bugiardo. Tutti sanno che mio padre morì prima di darsi una discendenza, ma chi ha vagato per tutta la sua lunga esistenza dopo quel giorno di sangue? Chi vi ha generato sognando che voi vi poteste fermare, costruire una casa di mattoni, crescere i vostri figli in un luogo che parlasse sempre la stessa lingua? Chi ha finito col procreare la discendenza del suo stesso martire? Vostro padre è anche il mio, ma al contempo ne è la negazione, ed è per questo che mi perseguitate, perché vi è chiara la radice del pastore che domina la nostra stirpe. Solo perché l'avete occupata tutta, non vi appartiene la terra che abitiamo. Solo perché avete spezzato il cranio, le gambe e il ventre di Hevrin Khalaf. Quanto è dolorosa e dolce la poesia del suo nome. E l'avete trascinata fino a strapparle lo scalpo, e bastonata, e colpita con proiettili che avrebbero potuto sfondare una parete di acciaio. Non vi appartiene la nostra paura. Solo perché ci avete invasi, razziati e fatti scappare come pecore impazzite. Non siete divenuti il nostro padrone. Solo perché ci avete fatto combattere le vostre guerre, illudendoci che anche noi avremmo alla fine avuto uno stato. Non siamo divenuti assassini e non abbiamo smesso di essere liberi. E ora il tempo è stanco. Assomiglia a vostro padre da vecchio, poco prima che tutto gli crollasse addosso. Avete inventato voi i funerali. Uomo deriva da homo e quindi da humus, da terra, da seppellitore di cadaveri. Pastore invece viene da pascolare, da lasciarsi alle spalle, da muoversi senza portarsi addosso se non la propria identità. Avete scelto di aggrapparvi a ciò che c'è sopra e sottoterra, a quello che viene dopo la vita, e volete che anche noi finiamo col farne parte. Solo perché vostro padre ha ucciso il nostro, finendo col generarci, questo non significa che anche noi moriremo tutti, lasciandovi il compito di concepire i nostri figli, di educarli, di renderli in tutto identici a voi, perché sì, sarebbero indistinguibili da voi, tranne che nell'essere. Noi non siamo uomini, solo pastori.